In che cosa consiste il Vangelo? Ho assistito ad un funerale, durante il quale un figlio di Dio ha letto e predicato il Vangelo. Poiché il defunto era un giovane di 30 anni, imprenditore, conosciuto da tutti, in un paesino del Piemonte, alla funzione erano presenti praticamente tutti gli abitanti del paese. Ero felice che molti di essi, per la prima volta, potessero ascoltare la parola di Dio letta e predicata da un figlio di Dio. Ma, con il mio più grande rammarico, ho potuto constatare che colui che parlava non ha presentato il Vangelo di Gesù Cristo. Sono rimasto veramente male, tornando a casa con il cuore appesantito, perché era stato predicato un altro Vangelo, un Vangelo che produce nessuna salvezza eterna. Queste riflessioni sono quindi state suscitate, provocate, da questa esperienza. Si parla molto oggi del Vangelo. È di moda. Ne parlano il Papa, i predicatori cattolici e protestanti. Lo professano coloro che dichiarano di credere in Gesù. Ma è questo Vangelo? In che cosa consiste il Vangelo? Sono domande che, forse, tempo fa non erano da farsi. Ma oggi, con il pluralismo religioso, a causa dello spirito presente nel mondo di voler appiattire ogni cosa, di voler formare un'unica religione, è più che mai opportuno chiarire in che cosa consiste il messaggio del Vangelo. Non esporrò nulla di nuovo, nulla che non sia già stato detto, anche se di nuovo vi è molto. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3 e versetto 36, «Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui». È un'opinione generale della quale dobbiamo liberarci, perché è la causa di tanti altri errori. Noi riteniamo che il versetto di Giovanni 3 e 16 racchiude il messaggio centrale del Vangelo. Esso recita: poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Pur essendo un'affermazione molto carica di significato, essa è incompleta. È vero che Dio è amore, è vero che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna, ma esposto solo con una simile locuzione, il messaggio del Vangelo non è espresso nella sua completezza. Quando noi predichiamo il Vangelo, dobbiamo sempre ricordare l'etimologia della parola, cioè dobbiamo ricordare cosa significa la parola Vangelo. Vangelo vuol dire buona notizia, un buon annuncio. Ma una buona notizia può sussistere solo se, prima, cioè, è stata una brutta notizia. Se non piove da 5 mesi e tutto è arido e la radio annuncia pioggia, questa è una buona notizia. Così, pure se piove da 5 mesi e tutto è allagato e la televisione annuncia che domani ci è il sole, questa è una buona notizia. Una buona notizia, per poter essere tale, deve essere preceduta da una brutta. Così, se si annuncia l'amore di Dio e la vita eterna, per chi crede in Gesù dobbiamo comprendere prima quale sia la brutta notizia, che fa diventare bella la notizia dell'amore di Dio. Secondo ciò che abbiamo letto, se esiste la vita eterna è perché, prima, esiste la morte eterna. Se ci è l'amore di Dio è perché, prima, ci è l'ira di Dio. Questo è un messaggio scomodo che disturba una società dove tutto deve essere favorevole, dove impera l'ecumenismo, dove si cerca solo il positivo. A noi non piace sentire notizie negative, non vogliamo sentire notizie scomode, così si preferisce il messaggio contenuto in Giovanni 3,16, dove si mette l'enfasi sul fatto che Dio ha amato tanto il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna, piuttosto che sentirsi dire che esiste l'ira di Dio. È un rifiuto di credere che esista l'inferno, non solo in certi ambiti teologici, ma anche tra la gente comune. Purtroppo alcuni figli di Dio, quando hanno compreso questo aspetto, si limitano a predicare un Vangelo che non urti le coscienze, che non produca il rischio di farsi dei nemici. Un simile Vangelo è un Vangelo da salotto. Così succede che persone, nell'ascoltare il Vangelo per anni, alla fine non abbiano comunque compreso nulla. Ho avuto occasione di portare un calendario con dei versetti della parola di Dio ad una persona che da più di 15 anni veniva evangelizzata e curata da un missionario. Questa lo accolse con gioia, dicendomi quanto fosse interessata a leggere il calendario e quanto credesse in Gesù. Alla mia richiesta quando avesse creduto in Gesù mi rispose d'essere sempre stata cristiana. Creatomi il dubbio, gli chiesi se credeva all'inferno. Mi rispose che per lei non c'era, perché alla fine, sempre secondo lei, tutti sarebbero andati in cielo. Così per un altro figlio di Dio che, da ben 40 anni, parlava del Vangelo ad una persona. Dopo un quarto d'ora di colloquio con me, questa si rese conto di ascoltare un altro Vangelo, quello cioè che ne affermava lo stato di perdizione, ma anche che la fede in Gesù la poteva salvare dall'ira di Dio, nella quale lei si trovava. Rivolgendosi al mio compagno chiese, «Perché non me lo hai mai detto?» Rispondendomi in privato mi rispose, «Perché volevo mantenere l'amicizia, ma i messaggeri di Dio non devono cercare l'amicizia fine a se stessa, piuttosto di essere fedeli nel trasmettere il pensiero di Dio. Tramite il profeta Geremia Dio dice, «Chi ha la mia parola, riferisca la mia parola fedelmente», Ker 23.28. La situazione è seria. Se vogliamo predicare il Vangelo, dobbiamo, prima di tutto, partire dai presupposti che stanno alla base del Vangelo stesso. L'uomo nasce perduto, è sotto l'ira di Dio, e, come tale, se in lui non avviene un cambiamento, se non crede in Cristo Gesù, è perduto. Non esiste battesimo con acqua che lo possa salvare. Ogni altro messaggio che non ha questi presupposti non è il vero Vangelo. Da notare che il Vangelo non dichiara che l'ira di Dio cadrà su chi non crede, ma che rimane su chi non ubbidisce a Gesù Cristo. Ciò presuppone che l'ira di Dio è già sopra di lui, che l'uomo si è già incamminato verso la condanna eterna. E questo vale anche per le persone che, a nostro giudizio, riteniamo delle brave persone. È innegabile che nel mondo vi siano delle brave persone dotate di uno spiccato senso umanitario, persone che si interessano del prossimo, con caratteristiche cristiane che a volte non si trovano neppure tra i figli di Dio. È una realtà che non possiamo ignorare, sia nella nostra cultura, sia in altre. Ma l'errore più è vicino alla verità, più è difficile da scoprire. L'Apostolo Paolo disse, «E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova». Non giova a nulla. L'Apostolo voleva chiarire che non è sufficiente essere altruisti al punto di dare se stessi. Perché se tutto ciò non è il risultato di una nuova nascita, non serve nulla. Anche il diavolo fa il bene. Ha il suo aspetto morale. Ma non per questo, è da ritenersi un figlio di Dio. Alcuni figli di Dio sono abbagliati dal perbenismo dei loro conoscenti. Anzi, hanno una tale ammirazione che ne parlano come fossero dei cristiani. Di più, ritengono per il loro prodigarsi in bene che siano migliori di altri, che hanno posto fede in Gesù. I loro amici sono salvati, i credenti dal brutto carattere, no. È vero che ci sono dei figli di Dio che fanno vergogna alla loro chiamata, al Vangelo. Ma per quanto questi siano indegni, rimangono pur sempre figli di Dio. I primi cristiani non erano tutti dei santi, non erano perfetti. Ma Paolo non ha mai dubitato della loro chiamata, a meno che, ovviamente, non facessero cose contrarie al Vangelo. E qui sta il grande equilibrio. La salvezza è senza opere. Sebbene senza opere di giustizia non vi è salvezza. Si può essere salvati e vivere come il figlio prodigo. Si può compiere opere potenti, predicare il Vangelo ed essere perduti, MT 7.2123. La parola di Dio non permette nessuna certezza di salvezza a chi non ubbidisce ai comandamenti di Cristo, ma neppure ci ordina di predicare una salvezza certa per tutti. Alcuni affermano che nessuno è chiamato a giudicare il fratello, che non si può giudicare se è perduto o salvato. È vero, però se non possiamo dire al nostro prossimo che è perduto, per coerenza ad una tale affermazione, neppure possiamo affermare che egli sia salvato, che Dio l'accoglierà in cielo. si tratta di equità. Il punto è questo. Alle persone dà fastidio sentire dire che chi non crede in Cristo è perduto perché solo Dio conosce i cuori. Allora, come nel caso del funerale al quale ho assistito, se non si può dire che la persona può essere perduta, non si può neppure sostenere che, ora, il defunto sia stato accolto da Dio, che ora si trovi alla presenza di Dio. A meno che noi non crediamo che esistano due possibilità, che nell'aldilà ci sia una condanna e una salvezza. Se esistono due possibilità, cioè una salvezza eterna e una perdizione eterna, allora abbiamo il diritto di dichiarare la perdizione eterna con la stessa forza con cui si sostiene la salvezza eterna. Dal momento che nessuno di noi conosce i cuori, se esiste la perdizione è lecito dichiarare anche che la persona morta possa essere andata all'inferno. Se invece non ne vogliamo parlare, allora il problema sta in noi, non nel messaggio del Vangelo. Quando le persone avranno compreso e accettato la perdizione eterna, allora e solo allora saranno in grado di comprendere la buona notizia, cioè il Vangelo. Com'è impossibile indurre una persona a bere dell'acqua se non presenta nessun sintomo di sete? Come non si può far mangiare chi è sazio? Come non si può salvare chi non è in pericolo così? È impossibile offrire la salvezza a chi non ha nessuna conoscenza e coscienza di perdizione. Offrire il perdono di Dio quando non si ha coscienza di averlo offeso, offrire il paradiso quando non si ha coscienza di essere all'inferno, non ha senso. Il più grande messaggio, o il Vangelo, è certamente che Dio ama la sua creatura per la quale ha dato suo Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. L'amore di Dio però deve essere collocato nel giusto posto. È vero che Dio ama, ma anche il perdono di Dio in Gesù non è incondizionato, quantunque sia eterno il suo amore e il suo perdono. Dio ama, e per questo è disposto a perdonare, ma ciò non significa che Egli perdoni sempre. Se vogliamo apprezzare l'amore di Dio, dobbiamo anche prendere sul serio il suo giudizio che incombe su di noi. Per nascita siamo tutti perduti, e questo lo ha compreso anche il cattolicesimo. Perché battezza i neonati per salvarli dalla perdizione e, solo mediante un atto di fede cosciente e responsabile nell'opera sostitutoria di Gesù Cristo, possiamo evitare la giusta e inevitabile condanna di Dio. Quindi, prendiamo con tutta la solennità che merita l'affermazione che troviamo nel Vangelo di Giovanni: chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Ottobre 2003, Ellero.